8. La tua colazione rock. La colazione che ti sveglia. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. E allora è andata questa settimana, vi svegliamo con il Rocky Horror Picture Show, quest'oggi con la traccia che apriva questo capolavoro, sì, con gli uccellini che suonano, questa è la sveglia di Pane, Burro e Rock and Roll. Michael Rennie was still the day the earth stood still, but he told us where we stand, and Flesh Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something was wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Double Feature, il brano col quale si apre Rocky Horror Picture Show, la colonna sonora che ci terrà compagnia tutta questa settimana. Per quelli messi male come me, spero ve la siate cantata come dei deficienti, come d'altra parte è giusto che sia. per un programma radiofonico di deficienti. Inizio della seconda ora di diretta, in tanti al nostro numero di SMS 335 100 7777. Vi ricordo in questa 17ª puntata che, essendo martedì, torneremo ad affrontare l'argomento lotto in maniera molto rock, garantiamo, come tutto qui a Pane, Burro, Rock and Roll. Tante le domande che continuate a porci. Un saluto a Emiliano, che ha ufficialmente la gatta più rock del mondo. Mi chiede: amico Ariele, è rock la gatta che singhiozza e poi sputa un dente? Avrà forse partecipato a una rissa? Se è ovvio, caspita. E certo, una gatta rock passa fuori la notte a fare a scazzottate. Mi piace molto questa idea, molto. Alcune domande invece riguardanti la distribuzione delle patenti davvero rocker questa domenica. Allora, JB mi chiede: ma domenica a Monlue c'è il tendone in caso di pioggia? Ma guarda, spero di no, perché io voglio assolutamente, la redazione ha voluto, scegliendo la domenica sera, che fosse una sera difficile, capito? Vogliamo una sera rock per presentare le patenti davvero rocker. Non vogliamo una cosa tranquilla il sabato in un bel club, no, belli all'aperto. Speriamo di no, JB. Portate il kayak e i ponci. No, penso di sì. Gian mi chiede come si arriva alla Cascina, perché arriva da Genova. Se non ricordo male, una tangenziale è quella di là, quindi tangenziale est, uscita Cam. Però le indicazioni dell'Ariele, guarda, veramente, è meglio non tenerne conto. Io ho reintrodotto l'auspicio di Mister Trombetta a inizio di settembre per l'esame di diritto romano, l'ho passato e ora mi serve una strombazzata per l'esame di medievale. Ara sta in una botte di ferro. I fedeli lo sanno, chi non ci crede ci crederà. Mister Trombetta funziona. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. The desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. See, I've I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Subito a raccattare le candeline che avete nascoste dentro l'office. Si chiama office anche da voi a Bologna? Sì, si chiama office in tutta Italia? Penso un, di sì. Un inglesismo così, redazione, si chiama office anche dalle sue parti? Sì, il comodì, il comò, no neanche, l'armadietto, dove si nascondono di solito le candeline per gli eventuali compleanni. Il cassetto della tavola? Sotto la tovaglia. Esattamente, quello lì, è proprio quello intendevo. Perché non vedo, perché evitare anche quest'oggi la rubrica dedicata ai compleanni. Un modo per festeggiare, così, dal nulla, d'amblè. Appunto per le prossime puntate, procurarsi un carillon che abbia inciso la canzoncina buon la compleanno. Anche perché cantata da noi fa veramente schifo. Beh, non ci siamo mai impegnati, di tanto, diciamo ha ragione. La verità. Un saluto, un ricordo a un attore, un grande attore scomparso nel 2004 che in realtà nasceva quest'oggi del 1952, Christopher Reeve, lo ricorderete come Superman. Sa che Superman aveva 2 anni in meno di me? No, questa da dove salta fuori? No, l'attore di Superman. Sa che Superman l'ho colta in fallo. Sa che Superman aveva 2 anni in più di me. E il fatto che lei resista a non controbattere l'ho colta in fallo mi stupisce. È stanco quest'oggi. Passiamo a un altro compleanno che è meglio. Sono fallace a mia volta. Era il 1955. C'era un piccolo Fricantoni al mondo, aveva un annetto soltanto e nasceva Karl Heinz Rummenigge. Ah, che come bella pronuncia. Come gliel'ho letta? Come gliel'ho letta? Straordinaria e poi anche passionale. Ex calciatore, indimenticato calciatore tedesco. Tedesco, benissimo. Ma proseguiamo. La pronuncia esatta sarebbe Tedesco. Tedesco. Senta dica, com'è, dica, come dica, ribadisco, dica, dica. Come le rilancio, come le rispondo. Nel 1966 nacque invece lo scrittore italiano, attualmente di grande successo, Niccolò Ammanniti. Un saluto al caro Niccolò, controbatto peraltro. Con il 1968 nasceva Will Smith, rapper statunitense e celebre attore. Lo ricorderete, Independence Day, Il principe di Bel-Air, insomma, quello lì. Anche ultimamente col film del regista italiano Muccino, La ricerca della felicità. Bravo, Wilm. Concludiamo con una bellissima bella donna. Bella e brava. Della quale sono gelosissimo, perché so che è sposata con un attore che non la merita, Michael Douglas. Lei è Catherine Zeta-Jones. Esatto, bellissima donna. Mandiamole un telegramma. Sì, quella, sa quella che entrava nella macchina italiana Alfa Romeo, tanto per non fare pubblicità, e c'era la musica che diceva You're unbelievable. You're unbelievable. Yeah, era lei, Catherine Zeta-Jones, nata nel 69. Auguri Catherine. Giovanissima. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play free. family cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on the river forever and ever, Emily. Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games for me. See Emily play. Appunto, sì, Emily Play, la psichedelia di Pane, Burro e Rock and Roll, targata Pink Floyd. 8 e 17 minuti primi, c'è l'Ariele in questo martedì 25 di settembre. Pane, Burro e Rock and Roll, essendo martedì, va a occuparsi di Lotto e scatenando l'invidia di tutte le tabaccherie sintonizzate su Rock FM. Noi abbiamo un tabaccaio di riferimento, si chiama Carlo, è proprio qui vicino a noi, vicino alla stazione centrale, e anziché farlo lavorare in questo momento in cui il negozio sarà zeppo di gente, noi lo chiamiamo in diretta a Rock FM. Ciao Carlo! Sono lì che smotoreggiano con la loro motocicletta. Ma fa molto rock, in realtà dovevi fare il collegamento proprio di fianco a una motocicletta. Avrebbe fatto molto rock. Senti, prima di dare i numeri di quest'oggi, devo sgridarti. Sei pronto? Allora, a garanzia della rocchitudine di questo spazio dedicato al Lotto, io ti ho tanato, ti ho scoperto, perché visto che tu di Lotto ne capisci, ho intravisto dalle tue mail che tu i numeri che diamo li giochi più di una volta. Come è da regola del Lotto. Esatto, ma Carlo, noi siamo rock, si gioca una volta sola, o la va o la spacca, scusami, eh. E non solo, metti che diamo i numeri, li giochi oggi, non escono, e domani escono e tu non li hai giocati, quello è... Però è l'apice del rock and roll, hai capito? Perché è un po' così, gli dà quel fascino sfigato che secondo me è un po' rock. Su cosa ce le giochiamo le triplette quest'oggi? Sì. Ok. Sì. Esatto, una tripletta Pane, Burro e Rock and Roll. Mi piace, ne ho preparata una anch'io che adesso ti dico, ma posso chiederti una cosa? Senti, ma non appendi sulla tabaccheria il foglietto terzina Pane, Burro e Rock and Roll? Dovresti. Passo lì. Esatto, passo lì con Frick una mattina e ci mettiamo d'accordo. Io, visto che avevo capito che la dedicavi a Pane, Burro e Rock and Roll, l'ho dedicata anch'io, pensando questo: il ciarlatano in piazza, che sono io, che è il 46, l'artista, che è Frick Antoni, che è l'81, e lo scribacchino, detto anche il cacacarte, che è il nostro redazionista, il 79. Quindi il mio viene 46, 81, 79. Mi raccomando, Carlo, guarda che ti controllo, non giocarlo più di una volta. Ci sentiamo giovedì. Tra l'altro, rimanga tra me e te. Se già iniziamo a dedicare le terzine al nome della trasmissione, è perché ci sono già finite le idee. Detto proprio... (ride)

separano dal D-Day, anzi dal P-Day, il giorno della patente. Brutta. Straordinaria. No, non era bellissima. No, la trovo invece arguta, molto arguta. Domenica questa, per la prima volta, consegneremo a chi meriterà la patente da vero rocker. Come si fa a sapere se ve la meritate oppure no? Bisogna rispondere al test attitudinale e guadagnarsi i punticini. Quest'oggi il test attitudinale va a trattare l'argomento figli d'arte. Ai ai ai, i soliti raccomandati. Sì, forse in Italia, ma nel resto del mondo è differente. In America, se sei raccomandato, non hai alcuna possibilità. Parliamo di un figlio inglese che, tra l'altro, a onor del vero, secondo me un po' se lo merita il successo che sta avendo. Lui risponde al nome di Zack Starr, figlio ovviamente del celebre Ringo Starr. Ringo Starr, cioè, ricordiamo un altro figlio d'arte batterista famoso, il figlio di Bonzo, Bonham. Eh già. Però ma torniamo a Ringo. Parliamo a Ringo, appunto figlio del batterista dei Beatles, anche lui è Zack un batterista Starr. E ultimamente sta girando dal vivo con una super band. Ricordate quale? Con chi sta suonando il figlio di Ringo Starr? Zack Starr, per l'appunto, suona, ipotesi A, con The Foo Fighters. Ma. Ipotesi B, con gli Oasis. Forse. Vedremo. Ipotesi C, The Toto Cotugno Band. I Toto o i Toto Cotugno Band? I Toto Cotugno. I Toto Cotugno Band. Le soluzioni? Come al solito ve le diamo fra poco, la risposta a dopo. Restate lì.